Quindi se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. Mattino di Alessandro Milan. Ciao grande Alessandro Magno. Direttore Gemelli è un complotto con tuo certo, libro zero. Ma vai certo, tu a fare propaganda qua a casa. E lo ripeto ancora. Ma vai, adesso ti darò un'altra informazione. Ci state speculando, questa è la, quello che vuol dire la vignetta di Vauro. Mi fanno tristezza, mi fanno anche un po' di tenerezza. Vauro somiglia ad Alfano. Una pentola di fagioli non mi interessa. Cioè, Salvini è una pentola di fagioli che ripete sempre lo stesso borborismo. Non mi interessa. Ma guarda, quello... siamo in due. Io non interesso a te. Per una volta siamo da me. Lo dico come dato storico. Maometto è un profeta guerriero. Gesù no. Terroristi dichiarano loro stessi di essere islamisti e di agire per Allah. Non mi sembrano frati trappisti e neppure boy scout. Ragazzi, che è venerdì e dunque buon weekend a tutti. È vero, il premier francese Valls ha detto che ora si temono attacchi con le armi chimiche, ma buon weekend a tutti. Sì, è vero, anche sul Libero dicono che ci sono dei droni in mano all'ISIS pronti a colpirci. Ma buon weekend a tutti. È vero, è psicosi nelle nostre città. Hanno trovato una borsa a Roma. C'era dentro, c'erano dei rimasugli di un narghilè. Però questo è bastato per evacuare mezza metropolitana. Anche ieri la fermata Duomo a Milano è stata chiusa. Tra l'altro ieri, scusate, il Fatto Quotidiano non aveva detto che era ad alto rischio la linea 2, quella verde a Milano. Invece a Duomo passa la rossa e la gialla, la 1 e la 3, quindi... Boh. Adesso un borseggiatore non può neanche fare come fanno i borseggiatori che rubano le borse e poi le abbandonano, prendono i soldi e abbandonano il resto perché vengono scambiati per kamikaze dell'ISIS. C'è un po' di psicosi un po' in giro. D'altronde non si sa niente in Francia, per esempio, della sorte di questo Salem Absalem, lì come si chiama? Salam Absalam, Abdel Salam, boh, non lo so. Abaoud pare sia morto, mentre l'altro, secondo alcuni, è stato crivellato di colpi, secondo altri è libero, tranquillo non tanto, che si nasconde. Vabbè, e qualcuno dice che bisognerebbe chiudere le frontiere, lo dice la stessa Francia, forse bisognerebbe rivedere Schengen, forse bisognerebbe rivedere un po' l'intelligence, visto che questa Abaoud ha fatto 5 volte avanti e indietro dalla Siria come se fosse andare un Milano-Roma sul Frecciarossa ormai. tranquillamente e via. 6:34 minuti, dai, c'è Lorenzo Nespoli in redazione, c'è Carmelo Lauricella oggi in regia, l'Alpino l'abbiamo mandato a dormire, e i vostri messaggi come sempre al 349-238-6666 è il numero per i vostri WhatsApp, anche se volete, che c'è WhatsApp, abbiamo anche il WhatsApp. E, saluto Massimo da Rimini, saluto Lele da Abbiategrasso, ci mandano già i saluti, che bello, è weekend, è già weekend, con questo clima sereno. Oh, intanto voglio salutare la Chiara, è con noi la nostra Chiara Geloni. Sei tranquilla tu a Roma, se o sei barricata nella casa? No, sono barricata in casa più o meno come prima, sì. Di notte dormi, adesso sei barricata no. In casa? Sì. Cioè tu vai in giro serena, tranquilla, non ti... Beh dai, un po'... Certo, cioè, diciamo abbiamo tutti qualche brutto pensiero in questi giorni, non è cioè che... vedi uno con la barba, dici... No, io con la barba, gli uomini con la barba veramente non ti piacciono comunque. No, mi piacciono. Cerco di non pensare. C'è Carmelo Lauricella che si sta lisciando la barba in regia, Carmelo Lauricella è lì tutto tronfio così con la sua barba. Vabbè. Non lo so, no, cioè, non, cerco di vivere, ecco, non sì, è certo, che si certo. possa pensare di stare in questi giorni vedo che adesso si comincia ad ammetterlo anche nei titoli dei giornali, c'è veramente la psicosi. Un po' le psicosi, sì, assolutamente. Insieme a te, cara Chiara, c'è il nostro grandissimo... Vincenzo, io ti ammazzerò! Il nostro Vincenzo, Vincino! Vincenzo Gallo in arte, Vincino. Dove stai, Vincino? Sto qua, due passi al Colosseo. Ecco, appunto, ecco, esatto. Potresti affacciarti e fare una foto per noi? Non so, o sei nudo? Non vorrei che arrestassero? No, è che le mie finestre danno interno. Ah, non la faccio sul Colosseo, perché non... Non sei scaiola, esattamente. Però dopo, quando finita la cosa, scendo e ti faccio una bella Colosseo. Foto. Bello, ci faccelo bello deserto, mica perché sono le 6:40, cioè proprio deserto. Cioè, facci capire dalla foto proprio la paura delle persone. Tu fai come tutti i giornalisti, cioè tu c'hai un'idea e poi dopo la modifichi rispetto a queste idee. È chiaro. O quando si intervista una persona in questi giorni, tu sai che cosa gli metti in bocca le parole e gliele metti in bocca. Se non le dice bene, le metti in bocca e fai dire le cose. Oh, aspetta, fermi tutti, devo fare un saluto. Mi salutano dalla Costa Rica, Vittorio. Io ho lasciato il cuore in Costa Rica quest'estate, già la seconda volta che ci vado, sono talmente malato della Costa Rica che ho ancora sul telefonino e non lo cambierò mai. Che tempo fa a San José, capitale della Costa Rica? Cioè, io tutti i giorni guardo, c'è il sole a San José. Vittorio, ci sta ascoltando in questo momento in diretta da Costa Rica. Dimmi da dove, scrivici in particolare da dove. Insomma, saluto anche Remo, il nostro cuoco dalla Dig Seychelles, che ci scrive in questo momento. Vabbè, ma ragazzi, siamo nel mondo, siamo multimondiali, ecco, multiglobali. Allora, a parte tutto, apriamo il Parlamento, che voglio chiedere questa cosa su Schengen, cose un po' serie. Adesso vado a prendere un caffè, quindi se mai ci vediamo. Allora, caro Vincino, dobbiamo blindarci con le frontiere, potrebbe essere una soluzione? Rispetto a quello che è successo in questi giorni, no, assolutamente no, perché la rotta principale Bruxelles-Parigi è sempre stata liscia, non è che anche prima di Schengen era... Forse io bisognerebbe... Una certa età, mi ricordo nel 68, nel 70 si passava tranquilli tra Parigi, tra Bruxelles-Parigi, anzi Amsterdam-Bruxelles-Parigi. Tu nel 70 c'è il triangolo della droga, il giro della droga. Città meravigliosa, sì, non la puoi, come dire, certo, inchiodare a un episodio del suo passato. Vabbè, ho capito. Tu nel 70 facevi tranquillamente la spola Amsterdam. Chissà perché andavi ad Amsterdam nel 70. Amsterdam per Van Gogh, per tutto, per la cultura che c'è là, assolutamente. Sì, no? È chiaro, è chiaro. Ti vedo io nel 68, poesia. Vado a vedere Van Gogh ad Amsterdam. Sì, sì, sì. Vabbè, vabbè. Vincent come me, scusa. Esatto. Comunque no alla blindatura. Chiara, tu che dici? Io dico che bisogna fare quello che è necessario, per carità, ed è difficile giudicare chi prende decisioni per la collettività in giornate come queste, però segnalo che molto spesso queste persone sono di nazionalità francese, come era successo già che fossero di nazionalità inglese altri terroristi in passato che avevano colpito Londra. E quindi non credo che sia soltanto in questa direzione che dobbiamo cercare. Cioè, dice, anche se fermano uno ed è francese, lo fanno passare. Vive lì, voglio dire. E quindi, insomma, adesso se ne dicono tanti in questi giorni, ed è giusto anche in questi giorni, insomma, stiamo assistendo a delle scene da film, vediamo dei blitz, degli arresti, ovviamente, insomma, è necessario fare tutto quello che è necessario, ma non credo che si risolverebbe un granché, ecco, tornando indietro su delle cose. No, ma è chiaro, ma anch'io credo che queste libertà che abbiamo conquistato non dobbiamo reagire tanto, metti i controlli alle frontiere e che succede. Oh, saluto anche l'altro cuoco che ci ascolta sempre, Alessandro da Mumbai. No, ma ragazzi, ma io non so se ti rendi conto, Chiara o Vincino, ci stanno ascoltando dalla Costa Rica, sì, oltre che dall'Italia, anche saluto Verona, saluto tutti i paesi, ci stanno ascoltando dalla Costa Rica, dalle Seychelles, da Mumbai, caro Vincino, tu sono posti che hai frequentato? Sì. Assolutamente sì. Tutti? Sì, sì. No, io neanche uno. Le Seychelles assolutamente sì, ed era un... posto meraviglioso pure là addirittura le Seychelles l'ho visitate con ho fatto una storia disegnata e il pagamento era un viaggio alle Seychelles, il racconto di questa, e là ho capito, là c'era un dittatore, c'era l'embargo contro questo dittatore delle Seychelles, e io là ho capito che invece era un imbroglio racconti di vita vissuta. Aspetta una cosa invece, cioè, per difendere il nostro modo di vita, sì, la nostra cosa assolutamente è fondamentale, se no che cosa, come dire, per cosa abbiamo combattuto? Esattamente. Sono d'accordo. Su questo sono d'accordo, però insomma c'è da dire che questo stile di vita purtroppo comporta il fatto che, ma infatti io l'ho detto una settimana fa e mi hanno accusato, ah sei pessimista, perché qualcuno dice, ma quale soluzione hai? Ma chi ha detto che c'è una soluzione? Cioè, il timore è che potremmo vivere in un mondo, perché il mondo è un posto anche brutto, non è un posto semplicemente bello, fantastico, è un posto in cui ogni tanto uccideranno alcuni di noi in questi attentati. Che dobbiamo fare? Cioè, può essere anche un mondo così, cioè senza soluzioni, o no? Sono pessimista, Vincino. Sono troppo... No, ma ci sono ogni qualche mese cattivi pazzeschi da tutti i lati. Per dire, io un attimo fa pensavo, tra uno jihadista e uno scafista, chi è più pericoloso? E allora, lo jihadista ne ha ammazzato 130, cioè, lo scafista ne ha ammazzati a centinaia affogandoli, no? Cioè, sono tutta gente cattivissima che spunta da qualche parte del mondo, e noi dobbiamo, come dire, di volta in volta lottare questi, non lo so, fare quello che c'è da fare. Chiaramente in questi orgia di Turkish show, di litigate, sì, in cui si fanno i conti con i loro, con le loro risse, e se le riprendono. Sono straordinari, sì, ma regolano i loro conti, ma su una cosa così delicata e così terribile, veramente. È vero. Sentite poi cosa succede. Anche c'è la caccia al musulmano che dice che hanno fatto bene. Cioè, questo è un altro gran classico dei talk. All'aria che ti un 24enne a Catania, sentite un po', senti Chiara cosa dice, tale Ahmed. Quanti anni hai? Ho 23 anni. 23 anni, e da quanto tempo sei in Italia? Qua, 5 anni qua. Voi continuate a uccidere la Siria e la Palestina, noi continuiamo a fare a Francia. E guarda, giuro, 8 dicembre c'è qualcosa, penso, a Roma, hanno detto su Facebook. Perché tu non fai la guerra con l'Islam, tu stai facendo guerra con Dio, che Dio nessuno può fare la guerra con Dio. Cioè, l'audio è un po' così, l'8 dicembre succede qualcosa a Roma, l'hanno detto su Facebook, cara Chiara. Capisci che è una fonte, oddio, ho visto i servizi di intelligence, a volte Facebook. L'8 dicembre, segnato? Come no? È l'inizio del giubileo, no? Certo, segnato, tutto a però, posto. Però, scusa, sì. in quello studio ieri, sì. a questo punto, dopo le parole di questo, sì. tutti hanno studio hanno detto bisogna arrestarlo subito. E secondo me no. No. Cioè, secondo me no. Secondo me se uno dice una stronzata in mano, una stupidaggine cosa... Non va arrestato. Se fa... No, perché non è... Se invece fa qualcosa di conseguente, qualsiasi cosa va immediatamente. Subito. Ma se lo dice soltanto... guarda che questo è interessante. Tu cara che ne pensi? Perché uno è stato arrestato, uno che a quinta colonna ha detto queste cose. È stato arrestato. Ma poi. Guarda, se dovessero arrestare tutti quelli che dicono cavolate e poi dicono l'ho letto su Facebook, troppi ne dovrebbero arrestare e non solo arabi, no? E quindi insomma, io credo anch'io che io non lo so se negli altri paesi europei c'è questa sovrabbondanza di chiacchiere televisive, di ricerca del caso esemplare, non lo so, io credo che in queste giornate uno debba pesare anche un po' le sue parole e anche lo spazio che dà le parole degli altri, cioè, ma voglio dire, ma che cosa serve amplificare qualsiasi così, diciamo, rendere opinionisti tanti personaggi così che sono soltanto assolutamente folcloristi. Sì, un po' è così. Vabbè, allora adesso qua ho iniziato, aspetta perché devo fare una lista qua, devo salutare Sant'Arcangelo di Romagna, tutti i posti che Vincino ha frequentato, in alcuni è stato anche in carcere, ha frequentato le carceri di questi posti, ricordiamolo. Saluti dalla Siberia, questo è un nostro grande ascoltatore, dalla Siberia, ci salutano da Anchorage in Alaska, io non so mai se ci paraculano a un certo punto oppure... in realtà no, allora per i numeri sono tutti veri perché su WhatsApp vedi i numeri, dalla Siberia hanno 007, quindi prefisso russo. Saluto da Pistoia, Yuri il tranviere. 007 prefisso russo. Certo, non lo sapevi. No, che no. Questo. Ma perché non lo sapevate? 007 è il numero per chiamare il russo. No, no. Buongiorno anche da Helsinki, Nadia, grande, anche lei il numero è 00358. Dunque siamo lì, come Helsinki, no? In Finlandia. Il famoso prefisso della Finlandia che tutti sappiamo. Poi saluto Francesco da Napoli, Paolo da Varese, da Monte Carlo salutiamo una signora, infatti 0033 prefisso francese. Andiamo avanti, Brugherio e vabbè. Allora, devo andare al traffico, poi rientriamo, e parliamo anche di altro. Vi voglio parlare un po' di Berlusconi e di altre cose tra poco. Manda traffico, traffico, traffico, traffico. È tutto un complotto, talebani, Al-Qaeda, Afghanistan, guerre, è tutto un complotto. Sembra una cosa facile da dire, ma è più facile aprire gli occhi. Sì, Milan, tranquillo, noi stiamo qui ad aspettare che magari ci viene un attentato pure qua, poi forse magari alziamo il culo anche noi ogni tanto, ogni tanto, e siamo sempre che aspettare che gli altri vadano avanti, noi aspettiamo. Alessandro, se ascoltiamo Salvini, come si dice dalle mie parti, murimme subito. In 15 giorni lui riesce a risolvere tutto, ma perché non si mette il caschetto e incomincia lui? Lui e tutta la Lega. Sto vedendo la gabbia e per la prima volta vedo questo Salvini vestito con giacca e cravatta. Mi ha fatto senso, lui sta bene con le magliettine. Mi sembra il calabrese contadino, gente grandissima, che si veste al giorno di festa. Ma c'è il contadino questo qui? Va bene, la nostra segreteria telefonica. Saluto anche da Lugano, anche se mi ci siamo troppo vicini, ma a Lugano, ma ragazzi, è fantastico, è fantastico. Da tutto il mondo ci ascoltano, oltre che dall'Italia. Vabbè, Berlusconi, cara Chiara. Mi piacciono le... Te la ricordi? La cantavi Mi piacciono le sbarbine? No, sei troppo giovane. Sì. Ma dai, chi erano gli Schiantos? Stupendi, gli Schiantos, mi piacciono le sbarbine. Allora, Berlusconi rischia un nuovo processo, non lo so, Chiara, tu hai tenuto il conto? L'hai perso. Perché avrebbe pagato 10 milioni di euro, cioè sicuramente ha pagato le famose olgettine, ma l'accusa di averle pagate per farle mentire, no? Sì. E quindi... Quindi è il processo conseguente al processo. Si ricomincia. Che c'hai, Vincino? Non va bene? No, è il settimo processo. Forse anche di tutto più. Tutto partito dalla telefonata alla questura di Milano. Il terzo, credo. No. Rubi no, terra. Perché questo parte da quello. No, c'è quello di Bari. I processi a Bari, i processi a... Parecchi. Perché in Italia ogni processo c'è il suo bis, ter, quater. Sì. Cioè non ce n'è mai uno. Saluto. Aspetta però che... Quinto. Noi stiamo parlando di olgettine, ma devo salutare un ascoltatore che ci segue dal Cairo. Egitto, dal Cairo ci seguono. Chiara, vabbè, ma non è il caso di chiuderla questa vicenda, cioè basta, cioè è un po' come chiudere un'era, basta. Vorresti dargli l'amnistia, niente del silenzio, cioè metti il fascicolo, arriva al magistrato e lo mette sotto, non so, un'inchiesta su un ladro di polli, poi arriva lì a Berlusconi e lo rimette sotto, prima fa un processo magari a due vecchiette che si sono prese a borsettate e basta, cioè, no? Ci vuole una riforma. Aspetta, Chiara, dimmi. No, dico, io dai, penso che sia destinato a calare sempre più l'attenzione su queste cose, perché dillo da sinistra, dillo da sinistra, basta. No. Io direi sempre come tutti gli altri, no? Cioè io non ho mai goduto di cose giudiziarie che colpivano Berlusconi, non penso che debba essere oggetto di persecuzioni a causa del suo impegno politico, ma non lo vuol dire, neanche penso che debba essere, diciamo, amnistiato con provvedimenti ad persona. Niente, non lo vuol dire, Vincino, niente, è dura e pura, di sinistra il corpo delle donne, se non ora quando. Facciamo una brutale sintesi. Non si sta parlando di moralismo sulle donne, si sta parlando di... Processi, si sta parlando di processi. Soldi dati per comprare il silenzio delle persone, che siano uomini o donne, mi cambia pochissimo in questo caso. Non so se sia vero che sono stati dati questi soldi, c'è un processo. Ho capito, stiamo parlando... questa è un'ipotesi, ma stiamo parlando del sesto processo su queste cose. Cioè, vabbè, ma dai, Vincino, guardiamo avanti. Ci vuole una grande riforma, non finiscono mai. Questo sì. Ma io sono favorevole alle riforme. Aspetta, però, devo chiedere una cosa importante a Vincino in conclusione, due anzi. La prima, un commento veloce sull'intervista a Casaleggio che ieri avrai letto sulla stampa. No. Non l'ho letta. Il titolo e ho detto evitare. Ma proprio così di per sé non la loro tra Casaleggio e Grillo non ci metto mano, è tra i imbecilli che governano là la cosa. Eccola. No, ma Vincino, un po' scherzo. scherza, un po' scherzi. Io lo dico al mio amico Sergio del Movimento 5 Stelle, che li segue la camera e ci ascolta sempre e ci chiama poi a dire: ma perché continuate a chiamare Vincino? Ma no, ma per fare rispetto a loro, rispetto a loro. Però attenzione, devo chiudere così: c'è una grande novità. Nel 2016 entra nel vocabolario 2016 terapia tapioco. Prematurata la supercazzola o scherziamo? Prego? No, mi permetta. No, io, scusi, noi siamo in quattro. È tutto vero. È tutto vero. Il termine supercazzola entra nello Zingarelli 2016. Era tempo, eh. Parola o frase senza senso pronunciata con serietà per sbalordire e confondere l'interlocutore. Supercazzola dal 2016. Quella che molti politici ci fanno anche attualmente, quindi è molto molto attuale. Devo salutare Vincino e Chiara Geloni, grazie per essere stati con noi, buon weekend, attenzione alle armi chimiche, ciao. Terapia tapioco, prematurata la supercazzola o scherzi? Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. 1, 2, 3. Adesso tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Dai che è venerdì, ragazzi, dai che è venerdì. Ieri grande successo allo Zelig, ultima serata di Platone, ho dormito 3 ore e mezza, benissimo, benissimo così, dai che è venerdì, cari amici, si chiude la 133esima settimana decisiva per l'abolizione delle province. La 134esima forse porterà delle novità, staremo a vedere, come sempre fiduciosi, Intanto siamo qui, avremo ospite il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, alle 8.40 sarà ai nostri microfoni, così come avremo ospite prima, alle 8.20 circa, 8.25, Alessandro Sallusti, direttore del giornale, sapete che si parla di lui anche come candidato a sindaco per il centrodestra. Allora, questo faremo con Oscar Giannino più avanti. Ora andiamo a leggere i giornali. È venerdì 20 novembre, i titoli, il Sole 24 Ore apre su Fede, BCE spingono i listini, tassi ai minimi in Europa. E poi, sempre una settimana dagli attentati a Parigi, sono queste le notizie più importanti sui giornali, e cioè ancora gli sviluppi. In Siria 6 volte, poi la strage, il titolo di apertura del Corriere della Sera riguarda questo Abdel Salem Abaoud che è stato ucciso ieri nel raid, o meglio l'altro ieri a Saint-Denis. Repubblica, caccia ai complici di Abaoud, psicosi ISIS, stretta UE sulle frontiere. Questo invece è il titolo del Messaggero, così abbiamo ucciso il capo dell'ISIS, il racconto dell'ufficiale che ha guidato il blitz di Saint-Denis. ISIS, l'Unione Europea blinda i confini, è il titolo del giorno, mentre Avvenire riprende l'appello del Papa, maledetti i signori della guerra, così curiosamente anche il Manifesto, dunque Avvenire e Manifesto aprono sul Papa, maledetta guerra è anche il titolo del Manifesto. Sono assassini non musulmani, questo è il titolo di apertura dell'Unità, domani Not in My Name, la prima manifestazione degli islamici contro i terroristi a Roma. Islamici in piazza contro i bastardi è anche il titolo di Libero, che continua con l'utilizzo di questa parola bastardi in prima pagina, nel titolo di prima pagina. La Stampa invece, terrorismo, l'Europa si blinda. E il Fatto Quotidiano, massima insicurezza, la polizia senza i giubbotti antiproiettile. Il Giornale è l'unico che apre in modo diverso la richiesta della Procura di Milano di processare Berlusconi, nuova agguata a Berlusconi, questo è il titolo di prima pagina. Ma guardiamo proprio agli sviluppi di Parigi, beh, tutti i giornali raccontano i dettagli che sono arrivati 24 ore dopo, per la verità, di questo blitz a Saint-Denis. Quei piani di Abaoud che il governo conosceva, questo è il titolo di pagina 2 del Corriere della Sera, il reportage che viene scritto poi fino a pagina 3 da Marco Imarisio, racconta i piani di Abaoud. Questo Abaoud che per carità è finito crivellato di colpi, ma prima di questa fine in pratica andava e veniva dalla Francia all'Europa, alla Siria, con una facilità imbarazzante, imbarazzante ovviamente per i servizi intelligence europei. E poi c'è l'uovo giallo, cioè Abaoud è morto, giallo su Salah. Salah Abdeslam, l'altro fratello, uno dei tre fratelli, quello che era dato in fuga, che fine ha fatto? Secondo alcune versioni è uno dei tre crivellato di colpi nel blitz di Saint-Denis. Secondo altri è tranquillo, che viaggia, o viaggia, insomma, non è tranquillo, magari sarà braccato, ma è ancora vivo in fuga. In Siria o nelle banlieue, i quattro francesi in fuga, così Leonardo Martinelli racconta, per esempio, lo mette tra i vivi. Gli jihadisti vivi sono Fabien Klein, che è convertito al salafismo a 37 anni, è considerato un po' un'altra delle menti insieme a Baoud di questa cellula. Poi c'è Sabri Yazid e poi c'è Salah Abdeslam, che viene dato dunque per vivo dalla stampa, e anche molto temuto Maxime Ochar, che compare in un video assieme ad Abaoud nella lista della CIA dei terroristi più pericolosi. Questi quattro sarebbero ancora in fuga, altri li danno per morti. Come vedete, la confusione un po' regna sovrana. Certo, mi ha molto fatto arrabbiare l'articolo di Elisabetta Rosaspina, pagina 5 del Corriere della Sera. Racconta la gioia vera e propria per il martirio. Gioia che la vedova di Samia Mimour, uno dei kamikaze di Parigi, fa sapere da Raqqa, ci fa arrivare qui in Occidente. La gioia di essere la vedova dell'uomo bomba di cui tutto il mondo parla. Chissà cosa c'è da essere contenti, ma secondo quella cultura distorta, evidentemente è così. Sono la donna di un kamikaze. La vedova esulta da Raqqa dopo la strage. Ha mandato SMS. E li ha ricevuti, è la moglie di uno dei terroristi, è la moglie di un kamikaze, e dunque c'è da festeggiare a Raqqa. E qui invece in Occidente, le nostre città, ragazzi, io voglio fare un appello anch'io alla calma, alla tranquillità. C'è una psicosi totale, per carità. Io capisco la paura, io stesso, se entro in metropolitana a Milano, è chiaro che, insomma, come dire, ecco, incrocio le dita, cosa devo fare? Però da Milano a Roma, falsi allarmi e psicosi, questo è il titolo del Corriere della Sera, ma ovunque si racconta di come basti ormai una borsa abbandonata, un portafoglio abbandonato magari da un borseggiatore, da una busta di plastica lasciata lì per fare evacuare le metropolitane, per chiamare la polizia. Giustamente sull'unità c'è una fonte di polizia che dice: ragazzi, più di così c'è il coprifuoco come controllo, anche presidio di militari, eccetera. Però la gente ha paura. Beh, è comprensibile, la gente ha paura. Soldati e posti di blocco per blindare le città, ma da Roma a Milano è psicosi, terrorismo, racconta Corrado Zunino su Repubblica. È interessante l'intervista al prefetto di Roma Gabrielli. Il prefetto di Roma Gabrielli parla. È intervistato da Antonio Maria Mira, dice: sto cercando di far capire alle persone che non si devono porre la domanda ora posso andare allo stadio, al cinema, in discoteca. Dobbiamo convincerci che la vita deve continuare. Così Franco Gabrielli, pagina 6 di Avvenire. Aggiunge: è farneticante chiedere di sospendere o annullare il giubileo, una vera idiozia. Così parla il prefetto di Roma. Non sposterebbe di una virgola la nostra esposizione. I terroristi non hanno aspettato la data della conferenza mondiale dell'ONU sul clima per colpire a Parigi. Non si vuol capire che questa gente segue un proprio calendario. Quando è pronta, agisce. A loro interessa colpire comunque. A Parigi, quando non sono riusciti a entrare allo stadio, si sono fatti esplodere fuori, non è che sono tornati a casa. Poi Gabrielli fa un interessante appello alla comunità islamica: prenda le distanze fino in fondo, superando posizioni agnostiche. Dice: chiedo alla comunità islamica una chiarezza, la chiarezza che questi sono terroristi criminali. Ma la chiarezza ci vuole da parte di tutti, aggiunge Gabrielli. Ci troviamo di fronte a crimini contro l'umanità e non si tirino in ballo scontri di civiltà o di religione, perché così si farebbe loro il miglior servizio. e riguardo alla fine agli allarmi giunti dagli Stati Uniti, dice Gabrielli: allarmi di questo tipo me ne arrivano e ne arriveranno tantissimi, li verificheremo, sapendo che potrebbero avere anche altri scopi, creare confusione o fini ancora più sofisticati. Comunque staremo molto attenti. Così Gabrielli. Certo, uno vede un po' i giornali e dice: oh, il Premier Val francese, Premier francese, ora attenzione agli attacchi possibili con le armi chimiche. E dice: beh, buon weekend a tutti. Oppure prendi la prima pagina di Libero e anche qui: i droni per colpirci. Droni armati minacciano l'Italia. Secondo i servizi americani, racconta Franco Bechis, vicino a Sirte, dunque in Libia, ci sono dei droni in mano all'ISIS già armati, pronti a colpire le nostre città. Peraltro sfuggono ai radar. E ribuon weekend a tutti. Ci vogliono ammazzare coi droni. Libero, pagina 9. I servizi temono un attacco con velivoli senza pilota. Almeno due sarebbero in Libia, pronti a essere puntati su una città italiana. Una volta partiti, i radar tradizionali non sono in grado di captarli. Sospendiamo per un attimo questa psicosi, questo terrore, e leggiamo l'articolo che ci fa tenere le mani sul volante se siete nel traffico. Mani strettissime sul volante, tazzine del caffè bollenti di cappucci da appoggiare, come al solito anche le brioche ripiene di crema che poi vi sporcate dalla rabbia se le stringete. Il giornale, riprendendo per la verità un'inchiesta di ieri del mattino, il giornale racconta che a Napoli ci sono 1761 vigili. Il problema è che 519 di questi vigili urbani a Napoli hanno tanto di certificato medico che certifica che non possono stare nel traffico, con delle scuse fantastiche. Se non ci sa, viene da ridere. Vigili a Napoli, le pazze scuse per non fare contravvenzioni. Il giornale, sentite qui, c'è il vigile che può prestare solo servizio interno, però allo stesso tempo può stare solo pochi minuti al giorno davanti al PC e non può rispondere al telefono del centralino. Cioè, sì, non fa un cazzo, nel senso, scusa, ho visto Carmelo che con labiale mi suggeriva, mi scuso per la parola, ma questo è. Poi c'è un altro vigile al quale è stato prescritto il divieto di sedersi alla guida di un'auto della polizia municipale, ma c'è una sottigliezza, perché quel vigile, la sua automobile personale, può guidarla a piacimento, ma quella dei vigili urbani no. Cioè può guidare la sua, ma quella dei vigili urbani no. Certificato medico. E poi, chi si chiede il giornale, che malattia avrà? Quella con scritto polizia municipale non si può guidare. Oppure quell'altro agente al quale non solo è vietato l'auto, guidare l'auto dei vigili, non può nemmeno viaggiare come passeggero per certificato, niente di niente, neanche. Che aria ci sarà sulle auto dei vigili urbani? E poi il caso limite del poliziotto al quale viene revocato il permesso di tenere la pistola e per il quale viene chiesto di evitare il contatto con il pubblico. Un vigile urbano, ma mi inquieta anche un po', non può tenere la pistola e non può avere il contatto col pubblico, tanto di certificato medico. I vigili a Napoli, le pazze scuse per non fare contravvenzioni. Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. State ascoltando un programma offerto da centrosoftware.com, i migliori ERP per gestire le imprese italiane. Dai Milan, stammi a mollar, schiena dritta e avanti, dialetto mantovano. Grande ascoltatore. Allora, devo fare una serie di saluti, qualcuno li perderò, ma voi continuate a scriverci saluti al 349-238-6666 e prima o poi vi becco, eh? Ivana, che ci saluta da Bergamo, non così esotica, dice, come le altre località, ma va benissimo, grande Ivana. Ivan, saluto anche te, sì. Poi Fabri d'Arzignano, da Molenbeek in Belgio ci scrivono. due ascoltatori italiani. E poi un quasi cuoco da Bali, Bali, Indonesia, fantastico. Enrico da Valencia, ciao Enrico. E poi da Caldogno Simone, Caldogno, casa del Divin Codino, cioè Roby Baggio, grandissimo Roby Baggio. Da Francoforte, Antonietta da Milano. Ci scrivo dalla tangenziale est, dice 30 km, ma andare a Mumbai ci mettere meno, più... perché prima c'era l'ascoltatore cuoco da Mumbai, ci salutano dal valico di Scillato, Palermo, insomma da tutta Italia e da tutto il mondo. Bene, allora cari ascoltatori, continuiamo a leggere i giornali. Una delle risposte potrebbe essere questa: i controlli alle frontiere, se ne parla spesso. Attenzione, perché oggi ci potrebbero essere delle novità al riguardo molto importanti. Infatti, come racconta Beda Romano da Bruxelles sul Sole 24 Ore a pagina 4, l'Olanda chiede una stretta su Schengen, limitando a 5 paesi la libera circolazione, vale a dire Olanda, Germania, Belgio, Austria, Lussemburgo. Racconta Beda Romano: combattuti tra integrazione europea e reazione nazionale, i ministri degli interni dei 28 si riuniranno oggi in via straordinaria. Decideranno di introdurre una stretta alla sicurezza e quindi controlli sistematici alle frontiere esterne dell'Unione, anche per i cittadini europei. Più in generale, a rischio ormai la libera circolazione nei 26 paesi della zona Schengen. Secondo le informazioni raccolte a Bruxelles, su pressione della Francia, i ministri dovrebbero adottare controlli di identità sistematici e coordinati alle frontiere esterne dell'Unione Europea, quelle esterne, cioè non tra gli stati. Attualmente le guardie di frontiera controllano i documenti di tutti, ma solo per i passaporti dei cittadini di paesi terzi vengono interrogate le banche dati europee. D'ora in poi questo specifico controllo varrà anche per i cittadini dell'Unione. Questo dovrebbero decidere oggi, comunque i dettagli ovviamente li scopriremo nei prossimi giorni. Mentre l'Unità lancia l'allarme, o meglio riprende l'allarme lanciato dagli Stati Uniti sui 5 foreign fighters che sarebbero in Italia, cioè 5 che hanno combattuto in Siria o in Iraq per l'ISIS e sono ora in Italia. Claudia Fusani, pagina 6 dell'Unità, la segnalazione della DEA, cioè dell'antiterrorismo americano, dell'FBI, già analizzata dagli esperti. 5 nomi. 5 cittadini di nazionalità musulmana ma residenti o con contatti in Italia che sono stati in Siria per fare addestramento sul campo e sono ora tornati nel nostro paese negli ultimi mesi. Questo sarebbe il warning lanciato dalla DEA americana, rilanciato poi dall'FBI. Anche qui in Francia dicono allarme chimico, attacco con le armi chimiche. In all'unità scartato il rischio di un attacco chimico, ma cioè, secondo me è veramente il rischio vero è quello di creare, generare una psicosi generale. Anche questa storia degli obiettivi sensibili, pensate, l'FBI ha detto che gli obiettivi sensibili sono a Roma il Colosseo e a Milano il Duomo e la Scala. Io che pensavo il bar di periferia sotto casa del Cingalese e invece ha messo tutto l'esercito lì. No, invece no. Sono il Duomo, il Colosseo e la Scala. Vabbè. Il Fatto Quotidiano invece ha iniziato una campagna un paio di giorni fa a dire perché facciamo affari con paesi che sono collusi con l'ISIS. E allora oggi c'è una puntata bis, se volete. Gianluca Roselli raccoglie i pareri non diretti, interviste, ma raccolti in qualche convegno, di Moretti, capo di Finmeccanica, e Roberta Pinotti, ministro della difesa. Soldi all'ISIS non è un problema nostro, questo è il titolo brutale del Fatto a pagina 3. Finmeccanica scrive: il Fatto non si pone il problema di fare affari con i paesi arabi da cui poi partono finanziamenti verso il califfato o ISIS. A ribadirlo Moretti, che in un convegno dice: noi parliamo con i governi di paesi che non sono sulla lista nera, siamo autorizzati anche degli Stati Uniti. Se poi all'interno di quei paesi ci sono persone che raccolgono denaro per finanziare l'ISIS, non è un problema nostro. Lo ha detto a margine del convegno Italia e NATO quale difesa, organizzato ieri dall'Istituto Affari Internazionali a Roma. A sua difesa interviene anche il ministro Roberta Pinotti. Sappiamo che all'interno di alcune nazioni arabe ci sono gruppi che raccolgono fondi per finanziare l'ISIS, ha detto Pinotti, ma sono fazioni combattute in primo luogo da quei governi. Sarebbe come se interrompessero i rapporti commerciali con l'Italia perché da noi c'è la mafia. È l'esempio usato dalla Pinotti per dire si deve fare affari lì. Oh, questo per quel che riguarda la guerra. C'è un'altra pagina sul Fatto Quotidiano che mi sento di segnalare, è molto interessante perché riguarda gli Assad. Siccome molti avranno visto il TG1, l'intervista di Bashar Assad, la presidente della RAI Monica Maggioni che è andata per intervistare Assad, ne ha fatto un reportage ieri sulla Stampa. Ecco, leggetevi la pagina che Roberta Zunini racconta sul Fatto Quotidiano su chi sono gli Assad. Faide, stragi, lussi, la saga feroce degli Assad. C'è la foto che ritrae Hafez e sua moglie Anisa, cioè il padre, il predecessore Hafez dell'attuale Bashar Assad. Quindi ci sono Hafez e Anisa e i figli sono Basil, Bashar, cioè l'attuale presidente, Maher, Majid e la figlia Bushra. Roberta Zunini, metti una sera a cena con mamma, papà, fratelli, cognati in un quartiere bene di Damasco, un venerdì sera, giorno festivo per i musulmani. A un certo punto uno dei figli Assad inizia a litigare col cognato, cioè il marito di sua sorella. E come se fosse un modo plausibile per dimostrarti di aver ragione, prende la pistola e gli pianta una pallottola nello stomaco. Ecco, i diverbi nella famiglia del presidente siriano Bashar Assad da sempre si risolvono applicando la legge del più forte della violenza. E visto che il popolo dovrebbe essere considerato una famiglia da chi lo guida, purtroppo non c'è da stupirsi se 16 anni dopo quella allegra cena del 99, Maher Assad, colui che ferì il marito della sorella, e il fratello Bashar, il presidente, abbiano reagito con una brutalità sconvolgente alla rivolta siriana scoppiata in Siria, costata la vita ad almeno 300.000 persone e costretto milioni a scappare. Il presidente Bashar Assad ha seguito fin da subito i consigli del sanguinario fratello Maher, militare di carriera capo della Guardia Repubblicana. Fu Maher a volere la repressione delle prime proteste del 2011. E avanti si racconta di una famiglia tra Mercedes, droghe, violenza. Insomma, la saga feroce degli Assad sul Fatto Quotidiano. Vabbè, prima della politica italiana è il momento di Mauro Meazza. Sai che molti mi hanno detto Mauro, buongiorno. Buongiorno. Molti mi dicono quando c'è Mauro Meazza io so che mi trovo al casello tot dell'autostrada oppure in piazza tot a Milano nel traffico. E siamo come l'orologio. Un pochino da segnatempo. Da segnatempo. Questo, ecco. Questo, va bene, no? Ce l'hai nel contratto comunque, se non sbaglio. Segnatempo. Ne sono contento. Volevo dire, non potevi presentarmi dopo i soliti indagati, arrestati, corrotti, prima, come fai di solito, cioè, proprio Assad, tutto materiale per i miei avvocati, sì, quindi sì. Loro ti ringraziano tantissimo, io un po' meno sinceramente. Senti, ti voglio parlare, so che già hai dato lettura del Sole 24 Ore per quanto riguarda le possibili interventi su Schengen, sì. E quindi non voglio tediare gli ascoltatori su questo, invece richiamo la tua e la loro attenzione, soprattutto la loro, sulla legge di stabilità, sì. Perché oggi c'è il voto di fiducia al primo ramo, al Senato, poi passerà alla Camera, quindi prima che queste misure siano vigenti occorre ancora aspettare, però ti voglio parlare dei comodanti. Cosa ne sai dei comodanti? Non lo so, ma tra poco ne saprò di più. Allora, leggi Sole 24 Ore perché ti spieghiamo, sai questo sconto sull'IMU e la TASI che si prevede per chi dà la casa incomodato, che so, a un figlio, a un genitore, eccetera, ecco, ti spiega, trovati che l'hanno costruito, lo stanno scrivendo in un modo in cui sembra un pochino difficile da prendere, ma tutti i particolari e anche sulle cose, sulle ultime novità della legge di stabilità, il canone RAI, il contante, il limite al contante che rimane a 3.000 euro nonostante insomma tutte le polemiche, le trovi su Sole 24 Ore oggi nelle prime pagine. Mm-hmm. Vorrei invece segnalarti che sulle pagine di Norme e Tributi, tra le tante cose, si parla di processo fiscale che passa alla telematica dal 1 dicembre. Tu non coglierai, lo so, per scarsa sensibilità l'importanza della cosa, ma ti assicuro ti assicuro che molti professionisti e anche contribuenti potranno apprezzare il passaggio. È un passaggio che avverrà in modo graduale, prima si comincia con due regioni e poi si andrà avanti tutto l'anno prossimo. Oh, naturalmente cominciamo oggi anche una serie di articoli sul contratto degli studi professionali. Oh. A proposito di professionisti, sempre nelle pagine di Norme e Tributi. Hai micro una Volkswagen? No, me l'hai già detto di no, vero? No. Però ti volevo dire che oggi c'è un consiglio di sorveglianza alla Volkswagen molto importante, perché decidono su Italia gli investimenti per via appunto dei possibili risarcimenti connessi al Dieselgate. Lo spieghiamo nelle pagine di Finanza. Oggi giornata importante anche perché parla Draghi. Ecco. Quindi silenzio, parla Draghi. Vediamo che cosa. Sì, ecco, mi raccomando. Parla naturalmente, se ci atteniamo tutti, di capire che cosa farà con gli stimoli all'economia, il famoso QEO, quantitative easing, posso dirlo, quantitative easing. Va bene, allora ti ringrazio di questa licenza, molte altre cose ti vorrei dire, ma soprattutto mi è nel cuore farti i migliori auguri per domani. Ti ringrazio. O ai vostri avversari, sinceramente diciamo che faccio degli auguri cumulativi, sì. E invece a tutti, perché perdano entrambe, ma non credo che sia possibile, quindi no, speriamo che sia, come si dice, una bella partita. Non saprei neanche dire se vinca il migliore, perché al momento mi sembra che vabbè. Non importa, non perdiamoci in queste cose, ti giunga alto e forte il mio saluto e un sereno augurio ancora di uno splendido fine settimana. Traffico! Anquo Alessandro Milan e leggerai i giornali come uno che legge i giornali. E che tanti schei? E allora, 7:49 minuti, vedete? Meazza è il metronomo, il mio metronomo, oppure se sento Meazza e sono ancora a letto mi sento in ritardo. E ancora, se sento Meazza e non sono ancora in tangenziale, butta male, pure la rima. È così, Mauro Meazza, dovremmo anticiparlo in un giorno di colpo di 6 minuti, gettiamo nel panico le persone. Tra l'altro mi arriva una segnalazione di un'ascoltatrice che dice che la metro A a Roma è ferma per un intervento delle forze dell'ordine, non so dove, non ci dice dove, e non so se tutta la tratta, e ci sono le navette sostitutive prese d'assalto, e commenta questa ascoltatrice, ci attenderanno mesi d'inferno. Insomma, ottimismo, però posso capire che soprattutto questi giorni c'è molta molta psicosi. Allora, la politica. Silvio Berlusconi rischia un nuovo processo, è ciò che chiede la procura di Milano, perché l'accusa è nei confronti di Berlusconi corruzione in atti giudiziari. La procura chiede il rinvio a giudizio perché l'accusa è quella di avere pagato le olgettine, 21 giovani donne, pagarle le ha pagato è abbastanza accertato, ma il pagamento, secondo la procura, secondo l'accusa, è stato fatto affinché le persone, queste ragazze, testimoniassero il falso. Giuseppe Guastella, pagina 17 del Corriere. Rubiter, Berlusconi a processo. Forza Italia lo difende dicendo questo è solo accanimento. Comunque, Berlusconi, secondo la teoria dell'accusa, è il corruttore e le partecipanti ai balletti del Bunga Bunga sono le corrotte e di conseguenza rispondono anche loro di corruzione in atti giudiziari, oltre che di falsa testimonianza, compresa Rubi, Karim Al-Marug. Insomma, Rubi, l'ex cavaliere, avrebbe dato all'incirca 6 milioni di euro per il suo silenzio, 2 per comprare appartamenti e un ristorante in Messico attraverso il suo ex compagno, Luca Risso, accusato di riciclaggio. Poi avrebbe dato anche 320.000 euro usati per andare in Messico e altri 360.000 passati per l'avvocato Luca Giuliante. Vabbè, insomma, un bel bottino in tutto. Comunque, ci si rischiera, devo dire, con la stessa accanimento di prima da parte dei giornali. Ormai questa vicenda è un pochino più in sordina rispetto a quando Berlusconi era presidente del Consiglio. Comunque il giornale dedica 2 pagine, il titolo di prima pagina, il Cavaliere dice accanimento, l'ira di Forza Italia sui PM, Repubblica invece dedica anch'essa 2 pagine, processate Berlusconi, ha comprato il silenzio di 20 olgettine con 10 milioni di euro. Però non c'è sicuramente la pruderie di qualche anno fa. Ma Noi avremo ospite tra l'altro il direttore del giornale Alessandro Sallusti, di cui si parla per la candidatura di Milano nel centrodestra. Giorgia Meloni, intervistata dal Quotidiano Nazionale a pagina 14, dice per esempio: Sallusti, se per Milano dice sì, sarebbe un ottimo nome, mentre chiude a Marchini a Roma. E però alla domanda che tutti le fanno, e cioè insomma, si candida o no lei, Giorgia Meloni? Non escludo niente, ma non c'è nulla di deciso. Insomma, forse sì, ma forse anche no, evidentemente. Lo stesso Alfio Marchini parla invece al Corriere della Sera, intervistato a pagina 19, dice: io sono forte pure alla garbatella, che autogol per i partiti spartirsi le città a tavolino. Marchini dice: è un autogol, si dà la sensazione di spartirsi a tavolino i destini delle città. La lista Marchini non è nata in un salotto, ma dal verdetto delle urne, e quindi corro con o senza centrodestra. Così Alfio Marchini a Roma. Lasciamo la politica. Due notizie di cronaca. La prima è questa: sarà più difficile avere giustizia per le vittime di mala sanità. È in legge di stabilità ciò che è passato, e lo racconta La Stampa, pagina 19, con Paolo Russo. Dal prossimo anno vedremo meno avvocati aggirarsi nei paraggi di ASL e ospedali. Arriveranno i super periti da affiancare ai giudici perché non si ripetano più sentenze contraddittorie. Soprattutto è passato nella legge sulla responsabilità professionale del personale sanitario l'inversione dell'onere della prova. Non saranno dunque i camici bianchi a doversi discolpare da eventuali errori, ma sono le presunte vittime di mala sanità a dover dimostrare che c'è stato un errore. Lo faccio vedere anche in diretta su Periscope. Più difficile avere giustizia per le vittime di mala sanità, lo racconta La Stampa. Mentre, che dire, in veloce conclusione, l'Unità mette a pagina 10 la novità dello Zingarelli. Il vocabolario entra tra le varie parole nuove che entrano, cioè jihadista, telepedaggio, capocurva, complottista, pentastellato. Entra nel vocabolario anche la parola supercazzola, quella terapia tapioco, prematurata la supercazzola, scherziamo, la supercazzola di Tognazzi entra nel dizionario Zingarelli. Vabbè, ci fermiamo qui? C'è la carta costa, articolo più inutile scovato sui giornali. Voglio fare questa provocazione col libro di Alfano, basta, me lo passa proprio Lorenzo Nespoli. Mezza pagina su Repubblica sul libro di Angelino Alfano. Chi ha paura non è libero. Ma chi se ne frega!